La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24. Vabbè, la sigla è un po' così, ma comunque si capisce che siamo noi che cominciamo. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia per essere qui all'ascolto dei microfoni di Radio 24. Oggi è la giornata nella quale la politica ufficialmente avrebbe dovuto chiudere, ma sapete che si vota ancora sulla legge di stabilità in Parlamento. Stamattina la conferenza stampa del Presidente del Consiglio, che ha inalberato un vessillo di grande soddisfazione per lui, questa svolta generazionale che sarebbe avvenuto nel 2013 con il suo governo, i quarantenni al potere. Forse conta anche poi il risultato concreto, e questa legge di stabilità in tanti giustamente secondo me fanno notare che la svolta annunciata non c'è neanche per un po'. Ma detto questo, ne approfittiamo oggi per stare su un tema esattamente di quelli che la svolta annunciata di questi mesi non è riuscito a toccare, e lo facciamo con una persona che ai miei occhi ha uno straordinario merito, quello di essersi messo a testa bassa, essendo un esperto di numeri, perché è un economista che insegna alla Bocconi, e di fronte al fatto, ve lo ricordate, no, che ai tempi del governo Monti era stata nominata una commissione che era guidata dall'allora presidente dell'Istat, che nel frattempo è diventato ministro del lavoro, la commissione Giovannini. A questa commissione si chiedeva di fare esattamente una comparazione. Il tema era i costi della politica e innanzitutto quindi i costi degli organi parlamentari, a cominciare dalle retribuzioni comparate dei deputati e senatori con gli altri grandi paesi europei, per dare dei criteri oggettivi di riferimento non solo a noi contribuenti, ma a tutti, e alla politica, per consentire di intervenire a ridurre, con un occhio appunto a preciso, conti alla mano, con quello che avviene, quanto costa e quanto pesa nelle tasche del contribuente gli organi analoghi, cioè il Parlamento, la Corte Costituzionale e così via. Ecco, ricordate che quella commissione dovette amaramente e un po' a sorpresa dire: noi non siamo in grado di farle queste comparazioni, non siamo in grado perché i numeri oggettivamente che ci vengono forniti, a cominciare da quelli del Parlamento italiano, non consentono di fare una seria comparazione. Ecco perché io stimo l'ospite di oggi, perché si è messo a testa bassa con i numeri che sono ufficiali o che si possono estrapolare da quelli ufficiali, a tentare organo per organo esattamente il tipo di comparazione che ci è stata negata dall'insuccesso della Commissione Giovannini. Allora, è con noi il professor Roberto Perotti, e ciò di cui parleremo oggi lo trovate, le diverse puntate di approfondimento con i numeri, sulla voce.info, che è uno dei siti che più si dà da fare in questi anni per offrirvi dei numeri su cui riflettere sui problemi dell'economia e della finanza italiana e anche sui costi della politica. In particolare lui ha una serie di puntate da novembre a oggi, ha approfondito esattamente i termini comparati della retribuzione di deputati e senatori, 1, 2, i termini della retribuzione comparata dei membri della Corte Costituzionale, ha scavato nelle norme approvate quest'anno dalle regioni in teoria per diminuire i compensi, tirando fuori conti alla mano, in particolare per alcune di queste regioni, Piemonte e il Veneto, come bilanciando la parte che viene diminuita, quella tassabile, con quella invece non tassata, cioè l'indennità e la diaria, in realtà i compensi finiscono per aumentare invece che diminuire, anche se ufficialmente si dice il contrario. E in questa serie di argomenti è arrivato pochi giorni fa con l'ultima puntata a toccare il punto dei dirigenti generali dello Stato, anche qua in termini comparati, quelli italiani e quelli di alcuni maggiori paesi. Grazie di essere con noi, il professor Roberto Perotti. Buonasera e grazie per i complimenti. No, non sono complimenti, qui ci sono fatti, e solo per consentire a chi è a casa, siccome saranno pochi minuti, di verificare poi sulla voce.info quello che dice. Chi avesse dei dubbi, come a volte capita, perché lei poi alimenta corrispondenze da quelle regioni di cui ha esaminato i numeri, sono venute molte obiezioni da parte dei politici. Allora, cominciamo, io le chiedo di essere ovviamente didascalico, perché chi è in ascolto di questi numeri ha un po' bisogno, secondo me. l'ultima puntata è quella in cui lei appunto affronta il tema della retribuzione dei dirigenti ministeriali. Il titolo è "Così numerosi e così iperpagati", e c'è un range abbastanza, una forbice abbastanza impressionante, perché i numeri che lei cita rispetto a quelli di altri paesi vedono i nostri dirigenti generali dei ministeri pagati tra il 50 e l'80% in più. È così? Sì, questi sono i numeri essenziali. Io ho confrontato i dirigenti di prima fascia italiani con i dirigenti apicali corrispondenti britannici in quattro ministeri, tra cui due grossi, esteri e economia, e diciamo, c'è poco da fare, la differenza è tra il 50 e l'80% a seconda del ministero e della posizione. Faccio alcuni esempi traendolo dal suo articolo. Cominciamo dal Ministero delle Politiche Agricole, in cui c'è una corrispondenza praticamente perfetta, lei scrive, tra le posizioni di vertice in Italia e Gran Bretagna: un capo di gabinetto, 3 direttori di dipartimento, 7 direttori generali. La figura più senior in Italia è il capo di gabinetto, che guadagna 275.000 euro. In Gran Bretagna il permanent undersecretary, che è l'equivalente, guadagna 192.000 euro, una differenza del 43%. Dopo di questi, in media 3 direttori di dipartimento in Italia guadagnano 287.000 euro contro i 166.000 euro dell'equivalente in Gran Bretagna, una differenza del 70%. I 7 direttori generali in media in Italia guadagnano 192.000 euro contro i 118.000 euro degli equivalenti invece britannici, una differenza del 60%. Allora, questo riguarda un ministero. Poi lei dopo fa il caso del Ministero degli Esteri, e qui il capo di gabinetto guadagna, del Ministero degli Esteri italiano, guadagna l'80% in più dell'equivalente britannico. Le posso fare una domanda? Comparando i dati delle diverse branche della pubblica amministrazione centrale, cioè dei ministeri, le cifre così divergenti, quella più divergente riguarda per esempio i direttori generali del Ministero dell'Economia, che guadagnano il 90% in più dei 4 equivalenti al ministero equivalente di Londra. Questa divergenza tra il 50 e il 90%, come si spiega in realtà? Non c'è una spiegazione, io credo, cioè si spiega, credo, con un fatto culturale, cioè che in Gran Bretagna, ancora prima negli Stati Uniti, il servizio allo Stato non viene considerato una sinecura, ma tempo si dedica allo Stato. L'esempio più lampante e famoso è quello del chairman della Fed, che Bernanke, che adesso sta per uscire, che prende circa 200.000 dollari, credo al tasso di cambio quanto sono 160.000 sì, euro, più o meno, sì. Contro i 550.000 del nostro governatore della Banca d'Italia, che insomma la Banca d'Italia rispetto alla Fed, con tutto il rispetto, sì, insomma, la Fed è un pochino più importante. L'obiezione che si fa sempre: noi dobbiamo offrire salari alti perché dobbiamo assicurarci i talenti delle persone in gamba, però non mi risulta che la Fed abbia mai avuto problemi ad assicurarsi persone brave. Insomma, Bernanke è considerato il più grande macroeconomista monetario al mondo e ha fatto un ottimo lavoro la Fed. Lo stesso vale peraltro per la Banca d'Inghilterra e per altre banche dello Stato, quindi non credo ci sia una spiegazione, onestamente, e senz'altro la spiegazione non è quella che c'è bisogno di assicurarsi i talenti, perché ripeto, la Gran Bretagna non penso che sia uno Stato male amministrato, non è una democrazia mal funzionante, i suoi ministeri sono universalmente riconosciuti tra i più onesti e capace al mondo, è ben governato, con salari molto inferiori. Peraltro poi bisogna ricordare che la City di Londra esercita un'attrazione enormemente superiore al settore privato romano, quindi anche lì la differenza in realtà è ancora più grande, perché la concorrenza della City è ancora più forte. Senta, le posso chiedere, siccome conosce da molti anni e è attivo nel mondo dell'economia e della finanza italiana, e quindi uno ha l'idea anche con i rapporti diretti nel percorso delle personalità impegnate anche un po' a cavallo tra il mondo dell'università, quello degli incarichi pubblici, abbiamo avuto parecchi tecnici che si sono impegnati, Cottarelli è impegnato nella spending review venendo da Washington, concretamente se un politico desumendolo dalle cifre che lei qua fa per i dirigenti generali dei ministeri italiani, dicesse: signori, ci dobbiamo dare il criterio ridurli a una media, diciamo quella britannica, ecco, non di un piccolo paese europeo, cominciando proprio, come ha detto lei, dalla Banca d'Italia anche. Che cosa avverrebbe in concreto? Lei immagina che ci sarebbe una adesione comprensiva da parte dei vertici della pubblica amministrazione italiana? Faccio un esempio per spiegarlo meglio. Mi ha molto colpito stamattina, leggendo un'intervista del relatore al provvedimento, quello sui diritti di recesso dei grandi affitti della Camera del Senato, quindi in teoria uno che, essendo relatore, doveva essere preparato sulla materia, che ha detto: noi quando abbiamo fatto l'emendamento sul diritto di recesso e poi ce lo siamo rimangiato, in effetti non avevamo pensato ai diritti dei privati, cioè dei proprietari degli immobili, che con un diritto di recesso a 30 giorni e senza ovviamente pagare le penali venivano lesi. È stata la Ragioneria Generale che ci ha fatto notare, giustamente, che c'era un tema, se intervenevamo su questo, di tutela, e la Ragioneria Generale ha scritto l'emendamento. E a dire la verità, io che sono il relatore, intervista che c'era oggi sul Corriere, e mica ho capito poi cosa c'era scritto. Quindi questi tecnici sono in realtà anche i responsabili di gran parte della legislazione sulla materia economica e finanziaria italiana. Come reagirebbero, secondo lei? No, reagirebbero come tutti quelli che si vedono tagliare lo stipendio, reagirebbero, cioè non sarebbero contenti. Però, come dicevo prima, bisogna, secondo me, sfatare un po' il mito secondo cui questi salari così alti sono necessari per assicurare che questi dirigenti siano a livello adeguato. Molti di questi dirigenti sono molto bravi, certo, e non voglio sicuramente minimizzare la capacità, però ripeto, trovo difficile pensare che se il Ministero dell'Economia inglese, con la concorrenza che ha la City, riesce a assicurarsi dei talenti perlomeno simili con 200.000 euro, non riescano a farlo i ministeri romani. E tra l'altro, diciamo, ci sono alcuni ministeri, come quello appunto dell'economia, che uno può pensare siano in concorrenza in qualche modo col sistema finanziario, però insomma, diciamo onestamente, ci sono altri ministeri in cui, cioè, 300.000 euro sono un regalo, perché non, tutti i talenti che uno si assicura con 300.000 euro se li assicura anche con 200 o anche con 150.000 euro. Anche perché, secondo me, di un certo numero di dirigenti generali del Tesoro che negli ultimi 15-20 anni hanno poi visto la prosecuzione, usciti dall'amministrazione pubblica, in banche d'affari e così via, non credo che questa roba non sarebbe avvenuta se, come giustamente dice il professor Perotti, fossero stati pagati un po' di meno. Quello che contava era quello che agli occhi di chi li assumeva come vice president, senior vice president, rappresentavano per la loro capacità di fare. Quindi intanto abbiamo appurato questo, che tra i direttori generali dei ministeri tra il 50 e persino l'80, il 90% dovrebbe essere tagliabile, in una logica britannica, non per arrivare ai quanto sono pagati a Malta. Eccoci qua, tornati in diretta, 16:47, primi 40 secondi dallo studio di Milano di Radio 24, e con noi il professor Roberto Perotti della Bocconi. Stiamo parlando di questa serie di articoli cui ha approfondito i termini comparati dei costi della politica nei diversi organi costituzionali italiani, che trovate la voce.info. Però prima di tornare ad altri organi, andiamo su un punto che riguarda la nuova legge per la cosiddetta abrogazione del finanziamento pubblico dei partiti. Roberto Perotti ha spiegato in uno di questi articoli che no, non è per niente abolito. Perché non è per niente abolito, professor Perotti? Perché ci sono due parti in questa legge. La prima parte è, cioè, il 2 per 1000, quindi una crocetta su un partito dal 2000 per 1000 delle mie tasse. Questo equivale a una detrazione del 100%, quindi è un regalo che si fa ai partiti, nel senso che se io regalo 10 euro delle mie tasse ai partiti, poi gli altri contribuenti devono pagare 10 euro di tasse in più per finanziare la sanità, le scuole e tutto il resto. E questo arriva fino a 45 milioni, poi c'è una parte che arriva fino a 15 milioni, che è una detrazione al 37%. E tenga presente che per le detrazioni all'università, ai centri di ricerca sul cancro, eccetera, la detrazione lì è il 19%, quindi i partiti si sono regalati due detrazioni, una al 37% e una addirittura al 100%. Noi nell'ultima puntata, penultima, anzi proprio con il terzo settore, abbiamo spiegato che non solo per la più alta aliquota di detrazioni riservata da questa riforma ai partiti rispetto al terzo settore, ma poiché si applica anche a un monte di cifra diverso, fino a 20.000 euro per i partiti, mentre invece sono fino a 2.000 per il terzo settore, il multiplo di detrazione è 12 volte fino a 20.000 euro di donazione. Se la date a terzo settore o se la date a un partito, col partito abbiamo fatto le cifre, sono 12 volte in più. Non è molto chiaro, questo lo vedo già dagli messaggi dei nostri ascoltatori, la spiegazione del fatto che con il regime del 2 per 1000 che viene contrabbandato e annunciato come la libera scelta dei cittadini, lei dice questo equivale di fatto a una detrazione del 100%, e questo la gente non capisce molto bene, perché dice no, che c'entra, qual è la libera scelta, non è una detrazione 100%, perché devo spendere più tasse sugli altri rispetto a prima? No, perché è il 2 per 1000. Se io devo pagare 100 euro di tasse, di questi 100 euro io posso dare 2 per 1000 a un partito, se non metto nessuna crocetta le pago lo stesso questi 100 euro, quindi è equivalente a una detrazione del 100%. Non è che se io non metto nessuna crocetta risparmio il 2 per 1000 delle mie tasse. Esatto. E quindi, poiché la somma ricordiamoci anche per voi che siete a casa che è già stato deliberato il montante di quello che col 2000 verrà dato, perché ricordatevi che in questo lo Stato procede anno per anno esattamente come abbiamo visto fare col terzo settore. Il terzo settore gli dà molto meno di quello che sono le scelte dei contribuenti. Se fate la somma comparata dei 91 milioni di euro di finanziamento pubblico attuale, che nei primi tre anni scendono 75%, 50% e 25%, per essere poi sostituiti dal sistema che vi ha appena spiegato il professor Perotti, in realtà sempre di finanziamento pubblico si parla e la cifra non è lontana da quella attuale, vero professore? Sì, questo diciamo assumendo che ci sia abbastanza gente che decide di dare il 2 per 1000 partiti, perché se nessuno dà il 2 per 1000 partiti o nessuno fa donazioni aggiuntive, i partiti effettivamente prendono zero, quindi da questo punto di vista c'è un progresso. E il secondo progresso rispetto agli anni passati è che 3 o 4 anni fa si pagava 350 milioni di rimborsi ai partiti. Sì, e poi eravamo scesi a 90. Però quello diciamo che secondo me non è stato completamente onesto, anche se è un passo avanti, di annunciare che c'è stata l'abolizione. Esatto. Allora sentiamo un nostro ascoltatore, Giorgio, che chiama dalla provincia di Rimini. Prego Giorgio. Giannino, buonasera. Buonasera. Intanto le anticipo che mi dispiace molto che lei non sia più nella politica. No, io, è giusto così e si paga un giusto prezzo come merito, quindi questa è la più grande lezione della mia vita, la mia debolezza non spiega quello che ho fatto, e quindi guardi, non si dispiace e veniamo al punto. Va bene, no, niente, in merito proprio a questi stipendi e queste cose, guardi, io ultimamente devo dire che assisto in televisione, mi sembra un po' un teleromanzo, cioè quando vedo questi politici, cioè mi sembrano degli attori, perché raccontano talmente tante balle, cioè, e cominciando proprio, non parliamo dei tecnici, cioè persone super pagate, ma che poi in definitiva non concludono mai niente. Cioè, e ogni tanto sento così, uno se ne va, poi sono sempre gli stessi, Bernabé, quell'altro di Alitalia, cioè, sono sempre le stesse persone che girano. Io mi ricordo, quindi lei insomma tende a dire, Giorgio, che non crede molto al fatto che questi costi della politica e del settore pubblico, poi comprese le controllate pubbliche, scenderanno mai. A proposito di un altro tema toccato dal professor Perotti, quello della dichiarato allineamento da parte delle regioni a una riduzione molto sensibile dei costi rispetto ai tempi dei vitalizi, e lei intervenendo in alcune di queste, prendendo ad esempio alcune di queste regioni, dimostra che in realtà si dice una cosa se ne fa un'altra. Attraverso quale meccanismo, professor Perotti? Sì, dunque faccio una premessa. Le regioni hanno ridotto una fonte di spesa che sono i vitalizi. Questo è anche così il Parlamento italiano. Questo è stato l'unico vero progresso che c'è stato, ma è stato un progresso reale, perché le pensioni a regime diminuiranno molto. Il problema è che ci vorrà un sacco di tempo per arrivare a regime. Però per molte regioni i vitalizi sono stati aboliti da subito, dalla prossima legislatura. Quello che però non è stato completamente compiuto è il passaggio successivo, cioè ridurre le remunerazioni dei consiglieri in carica, perché il governo Monti aveva posto un limite di 11.500 euro e quello che alcune regioni hanno fatto è di diminuire l'indennità che è tassabile e aumentare la diaria che è non tassabile, che di fatto è un reddito non tassabile. Quindi alla fine quello che il consigliere si porta a casa è più alto di prima in alcune regioni. E quindi ecco quello che avviene. Naturalmente hanno protestato di fronte ai numeri di Perotti, però questi sono i numeri. Che dire poi dei giudici della Corte Costituzionale? Beh, quello come il titolo del mio pezzo, secondo me quello è il vero grande scandalo dell'amministrazione pubblica italiana. Quello sono persone che portano a casa 500.000 euro all'anno, fino all'anno scorso avevano una automobile anche in pensione, avevano un'automobile a vita con due autisti. Dal 2011 ce l'hanno solo per il primo anno dopo che vanno in pensione, ma mentre sono alla Corte Costituzionale ognuno di loro ha una macchina con due autisti a disposizione. Ho calcolato che ogni giudice alla Corte Costituzionale solo per l'auto blu costa 750 euro al giorno. Però. E più il 550.000 euro di stipendio, più la pensione paragonabile. Quello non ha paragone in tutto il resto del mondo. Del mondo. Io adesso, siccome il tempo io l'ho esaurito, io devo ringraziare il professor Perotti e vi ricordo a casa che il membro anziano della Corte Costituzionale diventa praticamente, questa è la regola che si sono dati, presidente per avere poi il massimo degli emolumenti a vita dopo. E quindi presidenze così brevi, secondo me in violazione della Costituzione, si spiegano perché sono tutti d'accordo tra loro nell'aumentare ulteriormente questo scandalo comparato. Lunga vita al professor Perotti, spero che molte puntate ci farà. Grazie. E voi a casa incazzatevi!